che vuole. La tribù di M2O. D'Agostino. Sa quel che fa, chi lo sa, quando è che sbaglio, Su M2O, questa sera suona Gigi D'Agostino. Thank you. Your name, my friend.

questa sera suona Gigi D'Agostino. We'll be right back.

special guest Gigi D'Agostino.